Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Torniamo a parlare di spesa della campagna Libera la Domenica. Ce ne siamo occupati in altri spazi, oggi ce ne occupiamo con l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Ben trovato al presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Mirko, un saluto a tutti. Dunque, la campagna si è conclusa con la raccolta firme, appunto una raccolta di firme per cambiare la legge, una delle leggi del governo Monti, che ha di fatto aperto e liberalizzato le aperture di tutti i negozi e gli esercizi commerciali senza limitazioni, ciò che prima succedeva invece veniva gestito a livello regionale. In Veneto c'erano 16 domeniche più 4 da gestire nel corso dell'anno. Da ormai un anno e mezzo non c'è più differenza, ma questa legge appoggiata, promossa da Confesercenti, appoggiata dalla CEI, da varie diocesi e anche dall'Adico, insomma, cercava di raccogliere 50.000 firme. È andata bene, è andata forse meglio del previsto, vero? Sì, è andata meglio del previsto, tant'è che il numero di firme raccolte sono state il triplo rispetto a quelle che tutti ci eravamo prefissati, arrivando a 150.000 firme. E rispetto a quella che è stata una legge promossa da Monti, come detto, di liberare le domeniche, che qualcuno ha tentato anche di farla passare come un'iniziativa volta a creare nuovi posti di lavoro, di fronte a quello che è stato un fenomeno che ha creato un grandissimo malessere a livello occupazionale e anche a livello delle imprese che comunque che hanno continuato a chiudere, oggi comunque c'è stato questo fenomeno dove le persone comunque stanno chiedendo di non lavorare la domenica per tanti motivi di cui noi, come hai detto te, sosteniamo, perché noi riteniamo che insomma le persone e anche chi ha una libera attività debba essere spremuta tutta la settimana per 365 giorni all'anno. Anche voi avete contribuito a raccogliere le firme, parlando con le persone, insomma, cosa avete colto nel dibattito popolare? Vedendo i negozi, almeno i parcheggi dei negozi dei centri commerciali, c'è da dire che tanta gente comunque era favorevole a queste aperture, perché i parcheggi anche di domenica si sono visti pieni, poi magari nessuno comprava, però di fatto era così. Cosa avete percepito voi? Allora, noi il problema delle domeniche aperte l'abbiamo sempre affrontato, siamo sempre stati dalla parte del fatto che le domeniche, comunque la domenica, i negozi non devono rimanere aperti e il fenomeno deve essere anche regolamentato, soprattutto nel rispetto di chi lavora tutta la settimana e soprattutto anche nell'interesse di chi ha una famiglia e di chi comunque è giusto che abbia anche la possibilità di programmare un po' il suo tempo libero e salvaguardare anche quelli che sono i suoi interessi, volti proprio alla famiglia, all'educazione e anche, perché no, a frequentare la chiesa o la dottrina per chi ha occasione di non poterlo fare durante la settimana, perché comunque riteniamo che anche dare un'educazione ai figli oggi sia quanto meno essenziale ed importante. Poi, per quanto riguarda le segnalazioni, abbiamo raccolto delle numerosissime segnalazioni di persone che comunque sostanzialmente mettevano tutto e denunciavano di essere sfruttate. Perché? Perché se la grande distribuzione in un certo qual modo riesce a organizzare questa iniziativa gestendo un po' gli orari del personale, potendo contare su un certo numero di addetti, certamente il piccolo negozietto, titolare della piccola impresa, non può certamente pensare di contrastare i centri commerciali, con la conseguenza che ha messo ancora più in crisi anche il fenomeno dell'imprenditoria. Eh sì, sono gli stessi esercenti che dicono alla fine il fatturato non c'è, non è aumentato, perché i soldi da spendere sono sempre quelli, non è che aumentando le ore o i giorni di apertura si vende di più, cioè è una cosa piuttosto logica, ma evidentemente il governo precedente non ci ha voluto sentire da questo punto di vista. Adesso con queste 150.000 firme raccolte speriamo che il governo attuale qualcosa voglia percepire. Io mi auguro che quando ci siano, come adesso, 150.000 firme di cui le persone hanno volontariosamente con grande entusiasmo sottoscritto in poco tempo, abbiano l'opportunità, perché questa è un'opportunità, il governo ad ascoltare e attuare un'iniziativa che possa sicuramente andare nella direzione di accontentare le persone e anche un po' tutti. Certo, è anche vero che qua c'è anche la complicità e la colpa degli enti locali, perché oggi i comuni pensano di voler far vivere i centri storici delle piazze costringendo i commercianti a rimanere aperti la domenica. In tutto questo calderone chi ci rimette è chi comunque è costretto a lavorare e chi di questo fenomeno poi come dipendente e come anche piccolo artigiano poi lo subisce, perché sostanzialmente di fronte a negozi che rimangono aperti la domenica, se tu non ti organizzi della stessa maniera rischi veramente poi di perdere di competitività nei confronti di chi svolge un lavoro come il tuo. E certamente il dipendente poi alla fine vediamo, come è capitato anche in molti casi dell'Adico, che non gli vengono adeguati i contratti nazionali, collettivi, perché poi di fronte a quelle che sono le festività lavorate e protrarsi anche delle ore rispetto a quello che deve essere un numero definito settimanale, certamente ci sono molti furbetti che di questa cosa ne approfittano. Alla fine poi, per quanto riguarda la frequenza dei centri commerciali da parte delle persone e delle famiglie, sostanzialmente è un fenomeno, una tendenza, ma che non va a compensare quello che sono i costi di una struttura a rimanere aperte. C'è un grande movimento, c'è un grande interesse a frequentarli, ma sostanzialmente i carrelli escono pressoché o praticamente vuoti. Quindi alla fine della fiera veramente potrebbe essere una grande occasione quella di regolarizzare questo settore e cominciare a mettere delle regole serie di interesse collettivo. Ecco, ricordiamo che poi ovviamente le città d'arte hanno già delle loro regole, delle esigenze diverse rispetto magari a città o centri più piccoli, per non parlare dei paesi dove evidentemente non ha proprio senso tenere aperto. Anche, Carlo, nel confronto col resto d'Europa, insomma, basta andare in Austria o in Francia per capire che effettivamente lì di domenica, fatte salve appunto queste eccezioni, i negozi sono chiusi. È chiaro che a Parigi i negozi sono sempre aperti, ma è Parigi. Beh, nel nostro piccolo già non si può pensare di poter regolarizzare o parificare Padova con Venezia, perché Venezia sicuramente ha un tipo di turismo diverso rispetto alle altre città, però è anche vero che se noi andiamo in altre regioni o come per esempio è capitato anche in altre province, vedi anche Bolzano, o come in altre regioni, come hai detto tu l'Austria, per esempio addirittura scopriamo che gli stessi negozi chiudono alle 18 di sera e i negozi alimentari addirittura sono chiusi sabato pomeriggio. Per cui certamente da noi, come sempre, quando dobbiamo paragonarci all'Europa ne veniamo fuori sempre messi male, e sicuramente quando abbiamo l'occasione di mettere delle regole e contraddistinguersi con delle iniziative, noi facciamo sempre dei minestroni. Oggi speriamo che chi ha fatto queste cavolate, come molte altre, abbia l'occasione di mettere a posto, e ci auguriamo che chi lo faccia abbia anche rispetto dei lavoratori e delle persone che veramente nel lavoro ci stanno dando cuore e anima, e certamente nei numeri non hanno avuto quel riscontro che questa iniziativa meritava da parte di qualcuno voler promuovere. 150.000 firme, speriamo che possano essere quantomeno viste e poi di conseguenza ascoltate per tornare alla legislazione precedente. Con questo appuntamento ci fermiamo qui, ma la settimana prossima altri due temi da approfondire con l'Adico. Grazie al presidente Carlo Garofolini, buon proseguimento. Grazie a te, Mirko, e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci. In collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.